been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Allora sono le 21:30 in questo momento qui a Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. www.ondarossa.info, il nostro sito internet per quanto riguarda anche la possibilità di ascoltarci via streaming. E il caro vecchio telefono che è lo 0649 1750. Disorder, contenitore vario di wave, gothic, neofolk e molta molta elettronica. Questa sera puntata particolare perché, come i più sanno, usufruiamo anche, ci appoggiamo sovente ai cosiddetti social, in primis Facebook, e come tanti avranno notato c'è un cosiddetto disservizio in avanti che sta andando dalle 17:30, per cui per quanto riguarda il lato social questa sera ne faremo a meno. E quindi chi magari volesse interagire con il sottoscritto, c'è l'indirizzo di posta elettronica che è disorder@ondarossa.info, magari anche per dirci se sentono bene il nostro streaming. Oggi è 4 ottobre 2021 e andiamo ad iniziare con l'andarci ad ascoltare l'ultima fatica riguardante Lisa Gerrard, indimenticata voce dei Deccan Dance, ovviamente tuttora in attività, anche se ormai il loro ultimo disco, se non erro, risale a 2 anni fa, ma comunque è prevista una tournée il prossimo anno anche qui in Italia. Tornando a, nello specifico, a Lisa Gerrard, questo è Barn, ideato e suonato insieme a Jules Maxwell, molto dark wave con naturalmente le solite vene etniche tipiche di molta produzione di Lisa Gerrard. Ci ascoltiamo Deshta e Aldevim. Inconfondibile questa di Lisa Gerrard, qui in compagnia con Jules Maxwell in questo barn, questo ennesimo capitolo solista, diciamo, di questa artista australiana, che al contrario di Brendan Perry a livello appunto solistico ha prodotto una mole impressionante di lavori con tante collaborazioni eccelse, per esempio Klaus Schulze, tanto per dirne una. Mentre Brendan Perry è rimasto a soltanto due lavori solisti, quindi due approcci completamente diversi per quanto riguarda le loro capacità autonome dal punto di vista artistico. Comunque noi li attendiamo sempre come Deck and Dance. Gli elementi dunque sono quelli, naturalmente la Dark Wave e queste influenze etniche che pervadono e arricchiscono tanta della produzione di Lisa Gerrard. E adesso veniamo in Italia, come i più affezionati sanno. C'è spesso della musica italiana, sia in disordine sia in prove tecniche di trasmissione, spazio che va in onda ogni mercoledì a partire dalle ore 21. E questa sera è la volta di andare a conoscere una realtà dell'entroterra romano, esattamente di Palestrina, un paese che è una cittadina non lontana da qui, a circa 30 km da Roma, che ha dato i natali anche a Blocco 24. Una interessante nuova realtà, anche se tutti i componenti, bene o male, avevano precedenti esperienze alle spalle, per esempio i The Steer, Bloody Riot ed altre cose. E dunque vanno ad esordire con questo album omonimo. Un album, tra virgolette, ricco di influenze, già che anche qui c'è tanta di anni 80, gli anni 80 più oscuri, ma anche le canzoni si slanciano verso lidi più affini al synth pop, all'EBM. Insomma, ci sono anche tante, c'è tanta componente elettronica in questo Blocco 24. Li saluto nel caso siano all'ascolto, in primis Carlo, e noi ci andiamo ad ascoltare la prima, la seconda e la quinta traccia, ossia Non mi muovo, Difendimi e Ghiaccio. Noterete dunque come anche la scelta di cantare in italiano sia una scelta per certi aspetti coraggiosa, che in Italia non tutti fanno, anzi forse una minima parte di artisti decidono di cantare in italiano, soprattutto in questi ambiti. E dunque abbiamo fatto gradevolmente conoscenza con questo esordio di Blocco 24, come detto da Palestrina qui vicino Roma, un disco ben cantato e ben suonato, con Carlo voce e synth, Luca chitarra, Stefano al basso, Roberto la batteria e credo anche Andrea chitarra, quindi due chitarre se la memoria non mi inganna. C'era anche nel live che fecero qualche tempo fa qui a Roma. Robustissima dunque Dark Wave, anche perché supportata e caricata ritmicamente con ottimi percorsi sintetici che ne fanno un album decisamente fresco nel genere. Blocco 24, a distanza di 3 anni dall'EP che si chiamava Identità. Dunque Blocco 24 che ascolteremo chiaramente anche la prossima settimana. Noi si va avanti ancora Italia e da un progetto diciamo emergente veniamo a una vera e propria istituzione che porta il nome di Kilian Camera. Da un po' di tempo stiamo apprezzando questo triplo CD, un album molto esteso dal nome Cold Pills. Scarlet Gate o Toxic Daybreak, queste dunque tossiche pillole fredde. Un album che esce per la Dependent, etichetta tedesca, in Germania è Kilian Camera. Diciamo sono abbastanza di casa e l'album si dipana tra Dark Wave naturalmente, Synthwave, EBM, ma anche con spazi inaspettati di musica concreta e sperimentale che sono presenti soprattutto sul terzo CD. Ci andiamo ad ascoltare due passaggi del secondo invece di CT dal nome Blue Drug e Lux Industries. We'll be right back.